Chiuso definitivamente il silos, l'umanità varia che lo popolava si è almeno in parte spostata nei vicini magazzini in disuso del Porto Vecchio di Trieste. Proprio lì si sono presentati a sorpresa all'alba di oggi 60 carabinieri per un'operazione mirata straordinaria nell'ambito di una strategia di prevenzione e contrasto dell'illegalità. Il focus era su un magazzino in particolare, ma alla fine le verifiche sono state allargate anche alle vicinanze. 20 uomini, tutti stranieri, sono stati denunciati per occupazione di edifici altrui. Uno di loro, trovato in possesso di 23 grammi di hashish, è stato deferito alla procura per detenzione di droga. Sul posto sono stati trovati altri 26 grammi di stupefacente. Hanno aiutato alla ricerca della droga le unità cinofile di carabinieri, guardie di finanza e polizia locale. Due uomini sono stati accompagnati in questura perché erano senza documenti. Tra le persone identificate ci sono richiedenti asilo, ma non solo. Alcuni di loro, di giorno, vanno a lavorare. Secondo l'associazione CS, sono più di 100 coloro che dormono in strada tra richiedenti asilo o aspiranti tali. Per vederli basta andare in Piazza Libertà, soprattutto la sera, durante la distribuzione della cena da parte dei volontari. Nel resto del tempo gravitano tra il centro diurno di Via Udine e appunto i magazzini del Porto Vecchio.